Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera, buonasera di nuovo a tutti, 2:39 del mattino, sempre sabato 21 luglio del 2018. Continuiamo a parlare con le spose, con gli sposi, con tutti i festeggiati di questa lunga notte e parliamo ora con una sposa che ha già vinto il titolo per sposa con la gonna più ingombrante di tutte. Questo è un titolo ambitissimo a cui lei sperava da quando ha 12 anni e finalmente è riuscita dopo varie peripezie, varie sfide, eliminando fisicamente tutte le altre contendenti, ad avere questo importante titolo e insomma ci fa piacere ricordarlo ai nostri microfoni, ma soprattutto siamo qui per festeggiare lei grazie anche alle sue amiche e parliamo un po' di quello che ti succederà a brevissimo. Vai, intanto ti salutiamo e ti presentiamo, vai. Sono Claudia. Claudia che viene da un fantastico paese. Masate, di penso forse 3.000 abitanti. Masate, importantissimo. Milano. Masate, provincia di Milano per i neofiti e per chi non lo conoscesse. Almeno diamo anche un'indicazione geografica più precisa e più facile. Allora, dicevamo che ti sposerai, non so se a breve o a meno breve. 15 settembre con Alessandro. 15 settembre, quindi... Beh, è giusto, altro centro del mondo, è giusto essere specifici e didascalici. Ok, allora, e come vi siete conosciuti, come è nato tutto il vostro amore? All'interno di un giardino, vedendo come sei vestita, no? Lui fa il giardiniere. Vedi che tutto torna. Voi pensate che la vita sia una serie di casualità casuali, appunto. Invece no, è tutto scritto, tutto normale. Fa il giardiniere, vedi che bello. Quindi avrai sicuramente un giardino sempre pulito e curato. No, abito un palazzo. E vabbè, vedrai che poi anche il terrazzo. Prenderai casa e un'altra casa. Ah, le piante? Dei fiorellini che ogni tanto sbottano. Interno. Va bene, bene, però... Sì, sono certo, insomma, il verde non mancherà all'interno della vostra casa. Vedrai che poi cambierai casa sicuramente e avrai un giardino enorme. Speriamo. No, ti piacerebbe? Sì, con la piscina. Addirittura? Cioè, col giardino dentro la piscina? Sì. Bello, è un'idea innovativa. Vedi, è un'idea innovativa. Oppure tipo con un grosso tubo che tiri sulla piscina quando non ti serve e viene fuori il giardino. E quando male. È, butti dentro l'acqua e c'è la piscina. Male. E poi sarebbe l'unica in cui tuffandoti di testa non ti fai male. Perché cali sul morbido. Quindi vedi che ti ho lanciato un'idea incredibile. Se dovessi andare in porto, millino di euro, me lo date indietro. Anche 2000, molto bene, mi fa sempre generosa, mi piace Masate lì, Misano Adriatico. Masate, bello Masate, verrò a trovarvi. No, Masate, verrò a trovarvi. Salutiamo il sindaco di Masate, tra l'altro, che ci sta. Sicuro. Madonna, nemmeno il sindaco. Non, tu... so, chi è? Non sa nemmeno chi è il sindaco. Tu pensi. Eccolo lì. Ah, ecco. Quante volte l'hai visto in mutande? Quante volte l'hai visto in mutande? Ah, ok, qua il tuo futuro vicino di casa, bene, bene. Quindi sappi che non troverai mai le chiavi di casa, probabilmente, perché ti farà tutti gli scherzi del mondo e ti cambierà le vie. Insomma. Ti metterà sicuramente un senso contrario davanti a casa tua per creare un po' di difficoltà, così per dare un po' di pepe alla vita. E anche tu a Masate? Incredibile, quindi si comprano anche case a Masate, quindi vedete che sembra inutile, ma invece no, invece è il centro veramente del mondo. Ok, bene, bene, benissimo. E vuoi dirci anche chi ti accompagna, che è qui con te stasera? Se ne no, frega nulle. Le testimoni? Ma quello che vuoi, nel senso, puoi anche dirci che ti fanno schifo, cioè non ci offendiamo, è che le odi dal profondo del tuo cuore. Al mio matrimonio. Beh, quello lo speravo. Se pagate il dovuto. Se pagate il dovuto sarete presenti, altrimenti no. Se non arrivano in ritardo, mai le Silvia sarebbero le mie testimoni. E perché arrivano in ritardo? Non sono affidabili? No. Beh, lei dipende intanto se trova casa nuova, perché sì, se no. Esatto, che se. Cioè non farlo a cavallo del suo trasloco, perché. Non in ritardo di mezz'ora. Aia. Un paio d'ore. Che di solito è il modo per testare l'interesse e la fedeltà di un uomo. Invece loro è proprio di DNA. Infatti. ascolti. Indipendentemente da uomo, donna, amica, sorella. Ho detto che matrimonio all'una, invece lo chiedo. Ah, brava, è la stessa tattica, esatto, bravissima. È la stessa tattica che usano i miei amici con me. Io ho più o meno i 10 minuti accademici, me li prendo come l'università. Guarda, ci troviamo a 7.35. E dico, come si fa a trovarsi a 7.30? Cioè, o a 7.30 o a un quarto alle 8, non a 7.35. E poi mi trovo puntualmente da solo come un cretino e gli altri arrivano a un quarto alle 8, giustamente. Però almeno ci si trova, allora. Se no io arrivo a 5 alle 8. E quindi... E no, io ho 10 minuti accademici. Cioè, mai più di 10, però ogni tanto 10 purtroppo capita. Vabbè, insomma, era per insomma spezzare una lancia anche a loro favore. Poi 2 ore è un furto. Cioè, nel senso, 2 ore è veramente una ladrata. Quindi va bene, abbiamo conosciuto le fuse orarie, le chiameremo, perché vivono in un'altra zona. Jet lag, bravo, mi piace. Lei fa teatro. Lei fa teatro, monologhi teatrali, jet lag, mi piace. Abbiamo tante cose caratteristiche, non quella della puntualità. Esatto, diciamo che se la giocano bene su altre cose, Poi chi c'è ancora? Cioè, ne mancano 2, quindi non è. Lei è Pamela. Ok. Abbandonato questo bellissimo paese per andare nella grande città. E lì invece no, dove abita, scusa? Adesso Segrate. Ah, Segrate. Però che... Sì, però per non lasciare del tutto Masate ha voluto mantenere lo stesso suffisso. Esatto. Perché ho voluto far rima, perché sennò comunque le radici non le voleva perdere. Era importante. Segrate, che vabbè, non ve ne fregherà niente, ma tipo uno dei posti che peggio ricordo della mia vita, perché no, perché dovevo prendere un treno, ho finito un concerto e il treno non è passato. E quindi ho dovuto chiamare mia mamma alle 4 del mattino, che si è fatta 150 km per venire a Segrate a pigliarmi. E... Il concerto stavi guardando a Segrate? No, Ligabue al Mediolanum, al Forum, tipo, no. Okay. È solo che, vabbè, sto treno non è passato, quindi mia mamma è arrivata alle 4. Ma Ligabue quest'anno? No, parecchi anni fa. E... Che c'è da mio ricordo? Il concerto di Ligabue sì. Quest'anno. No, non si è presentato? No. Ah, ok, no. Ligabue, non si è presentato. C'era avviato il concerto, noi non abbiamo seguito che Ligabue si era... Ah, si aveva avuto i problemi alle corde vocali e vi siamo trovati nel con la bandiera, urlando, da soli, urlando da soli. C'è qualcosa che non va. Non, è vero che era avuto qualche problema, esatto, per qualche mese era stato fuori perché non ha potuto cantare. Beh, però poi vi siete ripresentati. Alla data giusta vi siete ripresentati. Sì, abbiamo guardato su internet e abbiamo visto, ma come mai? Ligabue. E quanto ci avete messo a capirlo? Che non si sarebbe presentato nessuno. Cioè, già il vuoto del parcheggio dovrebbe avervi dato un po' di sospetti. Però quanto ci avete messo a capirlo? Una mezz'oretta. Volevo tra l'altro svelarti una cosa importante che tu ancora non sai, ma mi sembra la serata giusta per dirtelo. 2 ore dopo si sono presentate loro due con la sciarpa di Ligabue e urlando anche loro. È qui la festa. E quindi anche loro sono rimaste fregate uguale, però con 2 ore di ritardo per mantenere fede alla loro tradizione, alla loro storia. Benissimo. Linda, è vero, povera Linda, che ancora non ha espresso parola, esatto. L'ha già detto. Tradate, Segrate, dove abiti? A Masate, incredibile, vedi, comunque anche la nostra sposa è una tradizionalista che insomma mantiene le radici, solo amiche del circondario o che fanno rima con Ate, se no non può, quindi Tradate e basta, Segrate, non è, finisce qui. E benissimo. E la Linda, poverina, mi sono accorto adesso che era un po' o quello che stava bevendo ha fatto parecchio effetto. Non l'ha ancora. Vedi, si è accesa la Linda, se la insomma la stuzzi. Vedi, se la stuzzichi un attimino si accende, mi spa. Ok, e scusa, non mi ricordo i rapporti che ci sono tra, forse non me li hai detti. Tutte amiche, qualche. Oh, ok, tutte amiche, qualche collega, no. No. Amiche di infanzia, amiche recenti. Anche perché eravate al parco giochi, che ve la raccontavate. All'altalena, che bello l'altalena. Cosa facciamo domani? Altalena, insomma, quei pomeriggi carichi di intensi e carichi di novità. Al bar del paese. Al bar del paese, assolutamente. Assolutamente. Eh sì, la famosissima briscola di Masate. E tra l'altro ve lo racconto perché insomma poi nel frattempo mi sono informato, Masate è l'unico paese che alle 9:30 chiude. Cioè proprio chiude. Nel senso. Anche prima chiude, quindi infatti per sotto casa mia che non chiude mai. Ah no, saranno cinesi. No, ah non è cinese. Fatemi tanto uscendo. Eh sì, perché giustamente insomma, almeno per vedere un po' le vite. Infatti per lo cioè, nel senso ho fatto anche fatica a portarle dentro perché giravano a bocca aperta all'interno del locale perché loro non conoscono questo orario. Cioè, per loro è un'esperienza nuova vivere questo orario. Non, erano tutte stupite. Infatti, ragazze, ma come mai sta bocca aperta? Ma non sono le 9:30? No! Ah, ma quindi cioè, ci sono anche le 2:49 nel. Sì! Ah! Bellissimo! Bellissimo! E quindi insomma ci fa piacere avervi fatto provare questa nuova esperienza. Dai, volete dire qualcosa? Volete insomma mandare un messaggio? Quello che volete, no? Ti amo Alessandro. Molto bene. Auguri per il vostro matrimonio. A tutti. A chiunque si sposi, auguri per il vostro. D'ora in avanti, auguri per il vostro. Quindi i single non parla, non era un messaggio per i single, esatto. Ah no, non solo, anche i fidanzati e i morosi. Loro, no, questo messaggio non era rivolto a voi, questo messaggio. Oggi no, esatto, molto bene, molto bene. E jet lag, volete dire qualcosa? Auguriamo un buon ritardo. Auguriamo. Pensa che loro volevano fargli auguri per la maturità, perché per questo bel traguardo raggiunto della maturità. Auguri per questo bel traguardo raggiunto, nel senso che loro, come sempre, sanno le parole giuste da dire al momento giusto. Nei tempi giusti, assolutamente nei tempi giusti. Molto bene. E posso chiederti se vuoi parlare o mi denunci? Come ti denuncio? Non lo so, vai Linda, regalaci un'emozione. La perla, Linda. Di saggezza. Non saprei. Va bene, è così, va bene. Mi basta qui. Hai ragione, Linda. Ti do qualche secondo? No. Chiamiamo a casa. Non sapresti, va bene, non ti preoccupare, basta che non mi arriva una lettera di denuncia domani dalla bocca. No, perché dai? Ha detto 9 congiunzioni in 10 parole, cioè non ha usato un sostantivo. Oh, guarda che la grammatica! Non ha usato un sostantivo in 10 parole, però va bene. No dai, non dire così. Sì, comunque continua a non usare sostantivi nelle sue frasi, è un record del mondo. Come ti chiami tu? No, comunque non c'è comunque un sostantivo neanche in questa frase. Continua a non esserci sostantivi. No dai, tu come ti chiami? E continua, dopo ci conosciamo meglio. Ah, parlava con me ma guardava Roberto. Ah ok, vuole parlare, però guardava Roberto. Sì, bene. Io vi giuro, voglio, cioè Babbo Natale 25 dicembre gli chiederò un giorno da Linda. Cioè voglio vivere un giorno da Linda a Masate, però solamente a Masate. No, che la renna, voglio proprio vivere un giorno da Linda nella tua vita, nella tua testa. Sì, voglio questo regalo speciale. Va bene, allora grazie mille ragazzi, anche perché so che siete interessatissime all'intervista in questi secondi, stanno facendo foto a ripetizione. Allora facciamo gli auguri ancora a Claudia e a Masate tutta. Esatto. Masate tutta. Sarà grande giorno, Assolutamente sì. 15 settembre, tutte in festa. E quanti abitanti fa Masate? 3.000, ecco, quindi tutte le nonnine già non parlano d'altro dal 2015. Dal 2015, assolutamente sì. Tra l'altro 3-2-1 buon anno, perché loro sono entrate adesso nel 2018 e quindi facciamo gli auguri di buon anno a Jet Lag che stanno festeggiando in questi secondi l'inizio del nuovo anno. Esatto, adesso tre nini e grande feste, mi fa piacere aver celebrato con voi l'inizio del nuovo anno. Sì, sono appena finito le lenticchie e il cotechino e sono in formissima. Va bene, dai, auguri ancora a Claudia e auguri ancora a tutte voi, in bocca al lupo per tutto quello che dovrà succedervi. A presto, ragazze, grazie mille. Grazie, ciao. Grazie.